Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi, giovedì 23 gennaio 2025, siamo qui. Ricordo che la trasmissione va avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band, è una band austriaca, esattamente di Vienna. Hanno, diciamo, esordito circa 6-7 anni fa, sì, si erano formati, anzi anche quasi 10, e nel 2022, circa 3 anni fa, hanno fatto uscire questo album che si chiama Eat Shit. Loro sono i Fuck Sorry, e fatto uscire questo album la band si è sciolta. Bene, direttamente da Vienna quindi i Fuck Sorry. Sì, ciao a tutte e tutti e buon ascolto. Allora, per chi ha ricevuto così la promozione, noi abbiamo messo appunto nella promozione delle parole chiave, diciamo, cioè abbiamo scritto su imprigionamenti, interdizioni, scarcerazioni, rivolte e lotte di liberazione, perché tutte queste parole vorrebbero essere così un po' una sorta di filo rosso che collega gli argomenti che vorremmo trattare. Iniziamo con il discorso delle scarcerazioni, riferito propriamente a questo cessate il fuoco tra questo cessate il fuoco da parte dello Stato di Israele, diciamo, e da parte di Hamas. E questo cessate il fuoco è stato così negoziato, e insomma in questi negoziati ci sono stati dei mediatori che hanno trattato la liberazione di detenuti palestinesi in cambio appunto della liberazione di ostaggi israeliani appunto catturati il 7 ottobre 23. E allora intanto c'è così, io mi sono un po' documentata prezioso blog Invicta Palestina, che frequento spesso, dove è stata fatta tutta un'analisi un po' sulla difficoltà da parte di Israele di rilasciare i prigionieri politici, soprattutto i prigionieri politici diciamo in età da combattente, non quindi molto troppo anziani e troppo malati, ma ancora in grado di partecipare, insomma, alla lotta palestinese. E nello specifico è interessante, insomma, rispetto a queste, a questi, a queste scarcerazioni, le richieste che Hamas ha fatto. Ad esempio, c'è stata questa trattativa per la liberazione di Marwan Barghouti di Fatah e di Ahmad Sadat del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. E fin dall'inizio della guerra, in realtà, cioè fin dal 7 ottobre 2023, Hamas ha affermato che il rilascio di Barghouti era una priorità assoluta in qualsiasi accordo di scambio. E appunto la delegazione che ha trattato il cessate il fuoco in questi ultimi giorni ha insistito per la liberazione di questi due prigionieri politici. Va detto che Barghouti in realtà fa parte, diciamo, del partito di Mahmoud Abbas, cioè quel partito che rappresenta ora l'autorità nazionale palestinese. Barghouti però nella sua così percorso politico aveva tutta un'altra impostazione. Intanto è un combattente, è stato arrestato nel 2002, condannato a 5 ergastoli per accuse di omicidio attribuite alle brigate dei martiri di Al-Aqsa durante la seconda intifada. Gli avvocati dicono che nell'ultimo anno ha subito pesanti abusi in galera. Allora, praticamente Barghouti nella sua storia politica, appunto, è stato un fautore di un ampio fronte tra i movimenti di liberazione e della cooperazione con Hamas, quindi non si è arroccato, diciamo, nel discorso di potere dell'autorità nazionale palestinese. E non dobbiamo, ci dicono, insomma, questi compagni che hanno scritto questo articolo, non dobbiamo dimenticarci che Abbas, dell'autorità nazionale palestinese, che ha passato 19 anni in carica, è dal 2006 che è in carica, e non ha mai nominato il nome di Barghouti o non ha mai cercato di spingere per la sua liberazione. E viene detto, appunto, dai palestinesi che questo succede perché teme che Barghouti sarebbe proprio il suo successore, e questo è una delle prove, diciamo, delle prove che l'autorità nazionale palestinese è una vassalla, in realtà ha un ruolo di vassalla dello Stato di Israele. E allora, altre cose, i negoziatori di Hamas hanno chiesto di liberare 1000 palestinesi prigionieri, inclusi Barghouti e Sadat, in cambio dei soldati maschi israeliani che sono ancora, appunto, ostaggi. Ricordiamo che nel 2011 un accordo per un soldato israeliano catturato, appunto, implicava sempre questo scambio, 1000 prigionieri palestinesi, quella volta Israele rifiutò di liberare Barghouti e Sadat, e invece venne liberato quello che poi era il leader di Hamas, cioè Yahya Sinwar. Ecco, come dicevo prima, lo Shin Bet, quindi i servizi segreti, hanno stabilito che nessun prigioniero politico in età o nella possibilità di combattere venga rilasciato, solo prigionieri con gravi malattie oppure troppo anziani per combattere. In questa ottica qua, insomma, anche così gli sforzi per far liberare Nael Barghouti, che è un uomo di 67 anni, quindi relativamente giovane, ma che è detenuto da 44 anni nelle carceri israeliane, che era stato liberato nello scambio di prigionieri del 2011 ma poi riarrestato nel 2014 e l'ergastolo gli è stato ripristinato, anche lui ha subito pesantissimi maltrattamenti dal 7 ottobre in poi, ma anche lui, lo Stato di Israele, sì, rifiuta di liberarlo. Ecco, un'altra cosa molto pesante è che Israele ha affermato che i palestinesi liberati devono astenersi da qualsiasi espressione di gioia nel territorio israeliano. Ben-Gvir ha detto: le espressioni di gioia equivalgono a sostenere il terrorismo. Le celebrazioni della vittoria, cioè il segno della vittoria, danno sostegno a quella feccia umana, a quei nazisti. La feccia umana ai nazisti sarebbero, per Ben-Gvir, i palestinesi. E ecco, questo articolo, insomma, interessante, finisce con una, con dei dati che sono dati numerici, ma sono impressionanti, soprattutto anche se paragonati con altri dati che ci dava una prigioniera del Fronte Popolare di Liberazione Nazionale di della Palestina, scusate, che è stata appunto liberata il 19 gennaio, Khalida Yarar. E questa compagna nel 2015 aveva fatto una, così, un'analisi, perché lei proprio faceva parte, insomma, dei gruppi di lotta per i diritti dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, e quindi aveva questo quadro generale che si riferisce al 2015. Allora, la Khalida ci parlava nel 2015 di 24 donne prigioniere, di 6.000 prigionieri palestinesi, di cui complessivi, di cui 240 bambini, e di 600 prigionieri in detenzione amministrativa, appunto quella detenzione che viene rinnovata di 6 mesi in 6 mesi senza nessuna motivazione, all'infinito, e che non ha nessuna capo di imputazione, no? Questa detenzione amministrativa ereditata dal protettorato inglese, e poi comunque che ci siamo portati, cioè che viene applicata anche ora, appunto, anche qui da noi, ad esempio per i prigionieri nei CPR. Allora, i dati del dicembre 2024 sono questi: ci sono complessivamente 10.400 palestinesi prigionieri, di cui 320 sono bambini e 90 sono le donne. Ci sono 3.400 prigionieri in detenzione amministrativa contro i 600 di 9 anni fa, di 10 anni fa. Inoltre queste cifre non includono il numero dei prigionieri palestinesi a Gaza, che sarebbero 3.400 alla data del 17 dicembre, 1.500 dei quali detenuti in 4 campi militari, tipo Sde Taiman, quei campi militari, insomma, e sono morti in questi campi militari almeno 50 prigionieri. E inoltre nel corso degli ultimi 15 mesi, quindi diciamo dal 7 ottobre 2023 in poi, sono stati detenuti, sono stati incarcerati per varie ragioni tra i 12.000 e i 13.000 palestinesi, quindi ancora di più, diciamo, di questi 10.400 complessivi che sono prigionieri ora. Non è appunto per una mania dei numeri, ma per capire anche l'enormità dell'intento distruttivo e repressivo di Israele nei confronti della resistenza palestinese. We'll be right back. unbelievable sound. Who killed all the waste when it goes beyond some cheat? Don't tell me real, we just play beside the abyss. We've all the games of system, Babylon society. Who killed all the trends, son? Now that's not me. E ora stiamo ascoltando questa band russa, loro sono Siberian Meat Grinder, della zona di Mosca comunque, e questo è il loro album datato 2022, Metal Beer Stomp. Sì, dicevo che il 19 gennaio 90 donne e ragazzi minorenni detenuti nelle carceri israeliane sono stati liberati nel primo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Tra queste 90 donne c'è appunto Khalida Yarar, che è questa militante del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, che ha dedicato tutta la sua vita alla causa palestinese ed è stata imprigionata più volte nelle carceri israeliane. E durante le sue detenzioni sono morti suo padre, sua madre, sua figlia e una nipote, e non ha potuto per nessuno di questi lutti ha potuto partecipare ai funerali. L'ultima volta Khalida è stata arrestata nel dicembre 2023 in detenzione amministrativa, sempre rinnovati di 6 mesi in 6 mesi da quel momento, e è stata in isolamento per 6 mesi. E, volevo ringraziare le compagne della Coordinamento Femminista e Lesbica che hanno appunto pubblicato questo omaggio, diciamo, alla Khalida, e anche documenti che risalgono a qualche anno fa, tra cui appunto questa sua lettera dal carcere del 2015 di cui prima accennavo, e lei, dove in questa lettera la Khalida ci dice: oggi sono parte delle 24 prigioniere di cui ho parlato in precedenza, dei 6.000 prigionieri, uno dei tanti prigionieri che soffrono la violenza carceraria e che sopportano il peso dell'ingiustizia ogni giorno, ogni ora, in ogni momento. Oggi, dopo essere stata arrestata in casa mia, davanti alla mia famiglia e a mio marito, ho tolto qualcosa al mio popolo, privandolo del mio dovere nel servire chi mi ha eletto. Oggi ho consapevolezza di come arrivano i soldati dell'occupazione, armati di tutta la loro tenacia e mostruosità. Sono arrivati a casa mia nel cuore della notte, mi hanno ammanettato, bendato gli occhi e portato in un posto che non conosco. Oggi mi è stato comunicato che la mia detenzione amministrativa è stata confermata, la detenzione ai sensi di un decreto più vecchio di me, un decreto che non rappresenta l'umanità del nostro tempo. Oggi il governo dell'occupante ha cominciato a tremare dopo aver subito la vostra pressione, si riferisce ai solidali, e quella dei liberi di questo mondo che condannano il mio arresto insensato. Questo però non ha impedito all'occupante di applicare le sue leggi più razziste. Così sono stata mandata in un tribunale che tutti sappiamo illegittimo, dinanzi a giudici di cui tutti noi conosciamo l'incompetenza, perché un carnefice non potrà mai essere il giudice della sua vittima. Anche se sappiamo essere in grado di trovare difetti nelle loro leggi, resta l'ultima parola ai rappresentanti della loro entità d'occupazione, il pubblico ministero, perché non vi è alcuna autorità superiore a quella della colonizzazione con le sue ingiuste leggi. Poco male. Questo è il prezzo che noi paghiamo per la nostra libertà, per la nostra dignità e per quella del mondo. Noi ci armiamo del vostro sostegno e quando sentiamo la vostra voce di solidarietà con la nostra resistenza, in noi crescono forza e fermezza. Oggi vi scrivo da prigioniera, non sapendo ancora quale sarà il mio destino, quanto tempo rimarrò in questa prigione sporca che non è fatta per gli esseri umani. Non so nemmeno se troverò un medico degno del suo titolo una volta malata. Non so se il cibo che mi danno è inquinato o se l'acqua è avvelenata. Non so quando il mio carceriere piomberà nella mia cella per tenermi sveglia e violare la mia intimità. Non so quando potrò prendere le mie bambine, Yaffa e Suha, tra le braccia. Non so quando bacerò mio marito, né quando potrò essere abbracciata da mia madre e quando potrò abbracciare la fronte di mio padre. So che per tutto questo ho bisogno di voi, di ogni voce libera in questo mondo, che ripeta assieme a me e, al mio popolo, abbasso l'occupazione e che possa il popolo palestinese godere della libertà. Sì, e rimaniamo in Palestina, appunto parlavamo di questo cessate il fuoco, risale a lunedì, quindi il 21 gennaio, Israele ha lanciato, quindi il cessate il fuoco era operativo da poco, ha lanciato questa operazione militare, muro di ferro, proprio nel nord della Cisgiordania e nello specifico per colpire Jenin. Questo perché Jenin è sempre il campo di Jenin, è sempre stato un luogo della resistenza palestinese e chiaramente l'obiettivo di Israele di continuare con è quello di continuare con la confisca delle terre della Cisgiordania e di espandere i suoi insediamenti In questa operazione, diciamo, oltre al terrorismo dei coloni israeliani, c'è anche per preparare la strada per l'annessione formale del territorio, di questi territori, di questi insediamenti, c'è anche la complicità dell'Autorità Nazionale Palestinese. Che cosa fa l'Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania? Lancia una repressione armata contro i combattenti palestinesi anti-occupazione. E a dicembre, ricordo, dopo la metà di dicembre, insomma, c'è stata questa bruttissima operazione militare da parte delle forze di sicurezza dell'Autorità Nazionale Palestinese che hanno lanciato un'offensiva, cioè intensificato più che lanciato, un'offensiva contro le forze di resistenza nel campo profughi di Jenin. Sono stati presi di mira i membri delle brigate di Jenin E praticamente in questa operazione militare sono stati uccisi anche dei civili innocenti, come un adolescente, Rebis Alabi, che è stato ucciso mentre andava per i fatti suoi con la sua moto nel campo profughi della città. E questo ragazzo è stato ucciso il 18 dicembre e ha scatenato chiaramente la sua morte, ha scatenato insomma la ribellione dei palestinesi del campo, ma anche un altro ragazzo è stato ucciso, un ragazzo di 13 anni, nonché un comandante delle brigate di Jenin, che era ricercato da Israele, che insomma è stato ucciso anche durante lo stesso raid. Questa forma insomma di vassallaggio di cui si parlava prima dell'autorità nazionale palestinese nei confronti di Israele è una roba gravissima. E tra l'altro in questa repressione del campo di Jenin l'autorità nazionale palestinese ha assediato e invaso il campo con i veicoli blindati, lo stesso metodo che viene utilizzato dall'esercito israeliano appunto quando avanza diciamo per insomma sì, reprimere in questa maniera devastante la resistenza palestinese. E tra l'altro sono state replicate non solo queste modalità diciamo pratiche di invasione del campo, ma anche le motivazioni, no? Le mistificazioni delle motivazioni. L'autorità nazionale palestinese ha giustificato le sue azioni sostenendo che le violazioni dei diritti umani e le esecuzioni sul campo erano finalizzate a mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico, stabilire lo stato di diritto e prevenire la sedizione e il caos nel campo di Jenin. E in questa così grave collusione dell'autorità nazionale palestinese con Israele è stata denunciata pubblicamente insomma in molte situazioni, ma per dire il 4 gennaio in un presidio a Roma, davanti alla sede dell'autorità nazionale palestinese, organizzato dai giovani palestinesi, e appunto in questo presidio è stato denunciato anche questo fatto, cioè che l'Italia attraverso i carabinieri va ad addestrare, è già andata, sta addestrando la polizia coloniale dell'autorità nazionale palestinese con la supervisione israeliana. E in questa opera di addestramento si distingue il centro di eccellenza per l'unità di polizia di stabilità COESPU di Vicenza, che è un centro praticamente dove i carabinieri addestrano alla tortura e alla controinsurrezione le polizie dei regimi più efferati. Però non c'è solo il centro di eccellenza eccetera di Vicenza, ma c'è anche la seconda brigata mobile, primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania, il settimo reggimento Trento Alto Adige, il tredicesimo reggimento Friuli Venezia Giulia. make noise if you're digging a hole. Like you mean it, take it, get the doll and be yes, better you and me. I'm gonna stay, make you my prey, and get away with it. Here we go again, right spin, my slay. Siberian roulette, till the end, and everything. The dogs just told me, do it as a friend, like I'm son of Sam. We got a soul in the camp. Venti, 37 minuti e 48 secondi di questo giovedì 23 gennaio è Zardins Magnetics, i giardini magnetici, come sempre ogni giovedì in diretta dagli studi di Via Volturno 29 a Udine su Radio Onde Furlane in FM sui 90 MHz e in diretta in streaming. E come sempre ci trovate anche in differita quando meglio vi va, insomma, organizzare per le vostre organizzazioni del tempo, nel senso ci ascoltate quando, insomma, riuscite in podcast dal blog Zardins Magnetics Radio noblogs.org. Bene. Io dico due cose ancora su questa questione della guerra in Palestina, legandomi anche alla questione di cosa significa materialmente portare avanti una guerra. E io credo che non c'è grande percezione, così, nel senso comune, non c'è percezione di cosa vuol dire fiumi di soldi che andranno alle forniture, diciamo, alle armi, forniture dell'esercito e delle forze armate. Non c'è ancora percezione, perché siamo comunque, come Stato italiano, Stato coloniale, Stato razzista, neorazzista, diciamo, con annessi e connessi, su cui non mi dilungo, ultimi anche sviluppi della settimana, ma da decenni, da lunghi anni, eravamo abituati, diciamo, con una, diciamo così, una quieto vivere, le cose erano un po', passavano per sotto, questi affari qua passavano per sotto, ogni tanto scoppiava qualche scandalo, si facevano le scarpe uno con l'altro e varie cosche, ma adesso ci sarà un giro di vite. Insomma, la NATO ha deciso che bisogna riarmarsi, e quindi lo stato di guerra si sta avvicinando. Questo vuol dire che, per esempio, il PIL, il prodotto interno lordo dello Stato italiano, insomma della realtà italiana, andrà, salirà, insomma, in maniera consistente. Per occupare e confiscare le terre dei palestinesi e diciamo consegnarle a questi manigoldi di coloni israeliani, servono i blindati, ad esempio. I blindati, per quanto riguarda la situazione italiana, verranno, diciamo, c'è un piano di consistente aumento e ampliamento del campo, diciamo, di questi mezzi. Notizia del 21 gennaio, sempre di questa settimana, quindi di lunedì scorso, il principale stabilimento di una ditta si chiama Otto Melara. Lo stabilimento si trova a La Spezia, è stato varato un piano per ampliarlo. Io adesso non so dirvi precisamente i metri quadri, ma comunque la notizia sulla Nazione, sul quotidiano La Nazione, parla, insomma, di un ampliamento per far fronte al boom produttivo e occupazionale, dei prossimi anni. Perché? Perché forse l'avevamo già detto, ma lo scorso 15 ottobre la più grande realtà produttiva militare in campo militare della difesa, diciamo, italiana, Leonardo, ha stretto una joint venture con un altrettanto potente realtà della Germania, Rheinmetall, e che prevede appunto che i macchinari, i prodotti della Rheinmetall, le armi, i mezzi della Rheinmetall, verranno costruiti in Italia da apparati della Leonardo, di cui l'Otto Melara appunto è proprietà della Leonardo. In particolare, per legarsi ancora al discorso di prima di questi carabinieri della regione, insomma, delle regioni nord-est che vengono mandati sì, cioè le formazioni, ecco, adesso non so come definirle, i carabinieri che vengono inviate in Cisgiordania, guarda caso c'è un piano, ecco, dell'Otto Melara per costruire i carri armati che andranno a sostituire il carro armato che adesso è in dotazione all'esercito italiano, si chiama Ariete, verrà sostituito da una da un'evoluzione del Panther, che è della Rheinmetall, costruito appunto in questo stabilimento di La Spezia. Dunque, facciamo un inciso: il carro armato si chiama Ariete, quello che c'è adesso, degli anni 90, ma Cordenon e Tauriano ci sono due grosse caserme di carristi, che si chiama appunto Brigata Ariete, tra l'altro, per combinazione. A queste due caserme, ulteriore inciso dentro, poi era successo anche il fatto del, se vi ricordate, il fatto del che era stato preso a cannonate anche un casale, diciamo, erano state distrutte, ecco, un pollaio, era stato distrutto un pollaio lì a Tauriano, in provincia di Pordenone. Torniamo a noi. C'è questo piano qua sui carri armati che vanno a sostituire l'Ariete con mezzi della Rheinmetall, e sono appunto un piano di 8 miliardi di euro, sono 280 carri armati che verranno consegnati a partire tra 2 anni e mezzo e 3 anni prossimi, quindi tra il 2027 e il 2028 cominceranno a essere prodotti questi carri armati di nuova generazione nello stabilimento di La Spezia, dalla Leonardo, su appunto progetto, insomma, della Rheinmetall. Non solo, i corazzati che vengono utilizzati in operazioni di controguerriglia dalla fanteria. Attualmente c'è un corazzato, appunto, che si chiama Dardo, della Otto Melara, con la joint venture Leonardo Rheinmetall, verrà sostituito da questo Lynx, un altro il mezzo della Rheinmetall. E qui il primo lotto è di 500 milioni di euro per già la metà del 2025, e i primi Lynx sono già stati testati nel campo di prova, diciamo, dell'esercito nei dintorni di Roma in questo mese di gennaio. La prospettiva è di acquisire 1050 di questi corazzati Lynx, e il piano è di 15 miliardi di euro. I primi saranno consegnati entro 2 anni, quindi tra sì, tra adesso, tra metà del 25 e il 27. Non è finita. Questo è il discorso per la joint venture. Lo stabilimento di La Spezia verrà inoltre, verranno aumentate, diciamo, o comunque proseguite le altre commesse, sempre per l'esercito italiano, della Otto Melara con i altri mezzi, diciamo blindati, che servono sempre all'esercito in operazioni del genere, di quella insomma di controguerriglia, contro insurrezione, il Centauro e il Freccia, che sono sempre dei blindati. Altro, ma facciamo prima una pausa di musica, poi continuiamo ancora un ultimo insomma particolare di questa corsa all'armamento del coi pantaloni alla zuava, dai. Dicevamo della scarsa percezione, così nel senso comune, delle persone di questa diciamo questo giro di vite del finanza, insomma del fiumi di soldi che scorrono per i fabbricanti di armi, non è finita. Oltre alla collaborazione per i mezzi, insomma per i mezzi terrestri di attacco, ecco, delle forze armate, c'è anche un'altra piccola, per modo di dire, collaborazione passata così sotto traccia, perché nel marasma di altre questioni relative, insomma, che ne avete sentite, almeno io non sentite a sufficienza nei mezzi di comunicazione, insomma di regime, di massa, diciamo. Invece questa l'hanno messa sotto in fondo a in caratteri illeggibili. Con Rheinmetall Leonardo ha acquisito, diciamo, cioè ha concluso questo accordo per realizzare questo nuovo sistema di contraerea che si chiama Skynex. Allora, mi ha colpito questo. La Rheinmetall aveva acquisito una ditta che si chiama Erlikon, è una ditta svizzera, quindi questo sistema avanzato di contraerea con controllo da remoto, diciamo, con i, si chiama, non entriamo nei dettagli adesso che tanto non serve fare qui gli esperti da strapazzo, ma comunque è un sistema aggiornato, ecco, di contraerea. E viene appunto, normalmente la Rheinmetall lo realizza in Svizzera, però in Svizzera, che è la neutrale Svizzera, c'è una legislazione che obbliga, anzi, cioè vieta l'esportazione di materiale bellico. Allora cosa fanno questi qui, che sono veramente per aggirare il divieto, la stessa, diciamo, lo stesso sapere, lo stesso progetto viene spostato tranquillamente in Italia, prodotto dalla Rheinmetall Italia con sede a, nella Tiburtina Valley, la chiamano, cioè il Tecnopolo di Roma, e l'esercito italiano è interessato e l'ha naturalmente comprato, pagando chiaramente alla Rheinmetall, che è una ditta privata, anche se si chiama Rheinmetall Italia, non c'entra. E niente, questo, quindi qui non entro nei dettagli dei soldi, insomma, c'era questa cosa qua del divieto a esportare materiale bellico, che bellamente viene così saltato a pie pari con questi accordi, insomma, tra i padroni alla fine, ecco. Thank you. Ecco, voltiamo pagina, ma continuiamo sulla rotaia impostata all'inizio di questa puntata di Zardins Magnetics, ovvero dagli imprigionamenti, dalle scarcerazioni, le interdizioni, le lotte, le rivolte e la lotta di liberazione. A proposito di questo, abbiamo adesso sembrerà un salto, ma in realtà c'è un legame anche nel prossimo testo che leggeremo, che è una dichiarazione spontanea resa dall'imputato Alfredo Cospito all'udienza del procedimento per l'operazione Sibilla in data 15 gennaio. Ne abbiamo, mi sembra, già accennato il giovedì scorso, che si è conclusa con il non luogo a procedere, ma in quella situazione appunto c'era stato una serie di dichiarazioni spontanee, tra le quali in videoconferenza dalla sezione 41 bis di Bancali, anche del compagno Alfredo Cospito. Vedremo, appunto, sentirete che andrà a sviluppare delle, appunto, questioni inerenti anche alle rivolte e ai provvedimenti repressivi degli stati contro, nella fattispecie, lo Stato italiano, contro chi osa rivoltarsi. Oggi voi rappresentanti del braccio giudiziario di questa Repubblica ci mettete sotto processo per delle scritte sui muri, per le nostre parole, per i nostri libri e periodici, costringendo di fatto l'anarchia alla clandestinità. Siamo in buona compagnia con questo governo a guida post-fascista. La censura e la repressione si stanno espandendo a tutto il corpo sociale, accelerando la transizione da democrazia totalitaria a un tragicomico regime da operetta. Detto questo, mi tocca ringraziarvi. Dopo un anno di silenzio, grazie al vostro imbarazzante e anacronistico procedimento penale, mi è concesso esprimere il mio pensiero pubblicamente. Anche se da remoto, anche se per breve tempo, di un battito d'ali, oggi posso strapparmi il bavaglio, la mordacchia medievale di un 41 bis che un governo di centrosinistra anni fa mi ha applicato per mettere a tacere una voce scomoda, per quanto minoritaria e influente, ma certo nemica di questa vostra democrazia. Questi 2 anni di regime speciale mi hanno definitivamente aperto gli occhi sul vero volto del vostro diritto, delle vostre garanzie costituzionali, rivelandomi un sistema criminogeno fatto di totalitarismo osceno quanto crudo e assassino. Oggi in quest'aula stiamo subendo un processo inquisitoriale basato su un'intervista rilasciata con regolare posta carceraria e non, come vuol far credere l'accusa, attraverso il colloquio con mia sorella, trascinata in aula per il solo fatto di continuare imperterrita a fare i colloqui con il fratello. Classica strategia di tutti i regimi autoritari del mondo, usata regolarmente al 41 bis per far terreno bruciato di ogni legame affettivo con l'esterno. È indicativo a ogni colloquio che faccio vedere le impronte delle mani dei bambini sui vetri blindati che li separano dai loro padri o dalle loro madri. Ma in fondo, che aspettarsi da una democrazia che mette in prigione i bambini? Naturalmente, mi assumo tutta la responsabilità dell'intervista, che è il motivo per il quale oggi mi trovo al 41 bis, come d'altronde mi assumo la responsabilità di tutti i miei scritti, l'ultimo, in ordine cronologico, il piccolo saggio sul MIL, nella Spagna post-franchista, scritto in alta sicurezza, prima di essere trasferito in questa tomba per vivi, e sono certo già pubblicato in procinto di esserlo. Ed è qui la particolarità di questa mia storia giudiziaria. Messo in questo regime per farmi tacere definitivamente, con l'accusa di un ruolo apicale, come definite il mio ruolo nel vostro contorto e involuto linguaggio, un brutto precedente il mio, con risvolti inquietanti. L'essere riusciti a far passare la tesi che un anarchico possa svolgere un ruolo apicale, un ruolo intrinsecamente autoritario, quindi incompatibile con quello che è il pensiero stesso dell'anarchia. Spalanca i cancelli del 41 bis a chiunque disturbi il potere, rivoluzionario singolo o movimento radicale che sia, oltre a rendere più facili i procedimenti penali abnormi come quello a cui oggi mi tocca assistere da imputato. Dico questo perché sono fermamente convinto che il mio trasferimento in 41 bis e questo stesso processo siano fondamentalmente un attacco alla libertà di pensiero e di stampa. È questo il fuoco della questione, il cuore di questo processo. La pericolosità del 41 bis non si può ridurre a un gerarca da operetta che imbastisce una patetica trappola a un'opposizione altrettanto da operetta. Indicativo in tal senso il mio trasferimento eterodiretto 2 anni fa da una sezione all'altra in vista dell'arrivo di politicanti romani per imbastire un teatrino con comparse più utili alla bisogna. La sua reale pericolosità è qualcosa di ben più oscuro. In potenza una formidabile scorciatoia repressiva in caso di conflittualità sociale. Quale modo migliore per silenziare i movimenti e le posizioni radicali di un regime emergenziale già attivo e testato? Uno stato di eccezione in cui molti diritti sono sospesi, in cui regna una censura assoluta già sperimentata in decenni di pratica sul campo. Chi saranno i primi a vivere sulla propria pelle questo regime speciale? I compagni e le compagne che si battono per la Palestina? Gli anarchici e le anarchiche che imperterriti continuano a parlare di rivoluzione? I comunisti e le comuniste mai arresi? 4 di loro sono decenni che resistono con fierezza in questo regime, nell'isolamento più assoluto, senza mai piegarsi. Se la guerra imperialista dell'Occidente tracimerà per reazione dai confini dell'Ucraina, irrompendo nelle nostre case, se i conflitti sociali supereranno il limite sostenibile di un meccanismo traballante, o anche solo se la transizione morbida e graduale in regime non sarà praticabile, il 41 bis, grazie proprio alla sua patina di legalità, sarà lo strumento repressivo ideale per una anestetizzazione sociale forzata, una sorta di olio di ricino per rimettere in riga i recalcitranti, un golpe graduale e a norma di legge. E questo spiegherebbe il perché di un regime emergenziale in assenza di una vera e propria emergenza, per fare accettare questa forzatura, questa aberrazione del vostro stesso diritto. Quale miglior cavallo di Troia se non la lotta ai cattivi per eccellenza, i mafiosi? Gente indifendibile, divenuta irrecuperabile dagli stessi politici che prima li hanno usati per il lavoro sporco e poi seppelliti qui dentro per evitare recriminazioni su favori fatti e mai restituiti. Un segreto di Pulcinella che non sorprende più nessuno. Con la scusa di combattere le mafie, avete calpestato le vostre stesse leggi, tradendo la Costituzione, ne avete svelato l'inconsistenza e la sua reale essenza di foglia di fico. Con la scusa di combattere le mafie, avete messo in atto una sorta di persecuzione etnica. Qui con me solo calabresi, campani, siciliani, pugliesi e ovviamente anche rom. Figli impresentabili di un meridione popolato da cittadini di serie B. Gente arrestata a volte solo per il cognome che porta, gente a cui i diritti, in teoria inviolabili, vengono negati per spingerli al pentimento, che nella vostra aberrante concezione del diritto si concretizza nella denuncia del proprio padre, della propria madre, del proprio fratello o sorella. Avvocati accusati di collusione quando non si fanno intimidire da PM Torquemada, colloqui blindati senza nessun contatto fisico umano. Colloqui nei quali i parenti vengono incerottati in caso abbiano tatuaggi e filmati e registrati alla ricerca di pretesti per arrestarli e inquisirli. Una spada di Damocle sospesa costantemente sulle loro teste per terrorizzare chi imperterrito continua a non voler abbandonare i propri cari. Un terrorismo di Stato che ha l'obiettivo di privare il prigioniero della solidarietà più naturale. Quella dei figli, delle mogli, dei mariti, delle madri, che è l'unica solidarietà che la gente qui dentro può permettersi e capire. una tecnica repressiva che, privando della solidarietà umana e dell'empatia, disumanizza. Arrivati a quel punto, al prigioniero, si può fare di tutto, perché non è più un essere umano, è solo un numero a cui estorcere informazioni. Nel caso non si piegasse, un soggetto da torturare con un isolamento assassino, privandolo di ogni speranza, in caso di ergastolo ostativo, fino alla morte. Una concezione del diritto degna della vostra etica. Questa è la lebbra che chiamate civiltà. Alfredo Cospito, appunto, 15 gennaio 25. Dire un commento veramente schematico, così, il tono come sempre delle altre dichiarazioni, anche delle altre dichiarazioni di Alfredo Cospito, sempre un tono così confidenziale e lontano, per così dire, lontano anni luce dai pistolotti, da voli pindarici, cioè chiunque è in grado di comprendere il messaggio, ecco, se c'è un messaggio, insomma, cioè questo presa di posizione, chiamiamola così, che lui fa e che gli, detto tra noi, gli costa, perché sarebbe una cosa non tanto così mai vista, che uno sta quieto, non fa dichiarazioni spontanee, sta zitto, si limita anche a, sì, a tacere, c'è anche la possibilità di tacere, nessuno ti obbliga a parlare, e invece lui prende la parola e sicuramente gli verrà rinnovato il 41 bis, sicuramente gli verrà consolidato il suo cosiddetto ruolo apicale, eccetera, e avanti, insomma, e la lotta, insomma, che lui fa è una lotta che si rivendica e che paga, insomma, che lui paga in termini prima persona, e sta tutti noi, ecco, a raccogliere in qualche maniera questo esempio, chiamiamolo, non so. Ehm, passiamo a un... Prima di passare, io voglio dire una parola anch'io su, su questa dichiarazione di Alfredo. Sì, lui dice però anche questo, ringrazia, tra virgolette, e... gli, così, i rappresentanti della giustizia borghese, perché in realtà dopo un anno c'è stata una un'interruzione nel silenzio, no? Perché dopo la fine dello sciopero della fame, insomma, non, Alfredo è stato, cioè è rimasto seppellito lì, appunto, nella tomba per vivi, ma non c'è stata la possibilità per lui di parlare, né per noi di ascoltare le sue parole, diciamo. Mentre in effetti in questa udienza ha potuto stare per ore, anche se in videoconferenza ovviamente, ma ha potuto vedere i compagni, ascoltarli, farsi sentire, quindi in qualche maniera c'è stato come una specie di, cioè è stato importante cogliere questo momento, insomma, di interruzione del silenzio. Ovviamente Alfredo Cospito è una persona, come dice, insomma, come ben si emerge da questa sua dichiarazione, che si rivendica tutto, cioè che va avanti, insomma, sì, va avanti e anzi si approfondisce, diciamo, la sua attitudine di odio verso lo Stato. E, però queste parole io le vedo anche così. È vero che pagherà, è vero che è dura riuscire ad avere il coraggio di parlare anche in quella condizione lì, però è anche un messaggio che avviene a noi di non dimenticarci non solo di lui, ma di non dimenticarci, che è impossibile, ma di non dimenticarci proprio della lotta contro il 41 bis e quindi di rilanciarla e sì, di riprendere le fila anche di questa lotta qua. Secondo me è importante questo. E abbiamo una, però non è tutto, appunto, scusate, ma non è tutto, ecco, la realtà della prigionia, la realtà della repressione, la realtà delle lotte, la realtà delle rivolte in questi anni della realtà, appunto, italiana, non è proprio senza, ecco, non è proprio un deserto totale. Ci sono delle piccole piccole, insomma, eccezioni di gente che alza la testa, insomma, alla fine anche, insomma, un minimo, abbiamo detto anche altre volte, anche minima testimonianza di non piegarsi ha una sua qualità, sicuramente, in situazione, in un contesto storico, insomma, del genere che c'è in questi anni venti del ventunesimo secolo. Ci scrivono da dietro, insomma, dietro le sbarre alla nostra casella postale, come sempre, insomma, ripetiamo che c'è questa possibilità. Ci scrivono da un carcere molto, insomma, una struttura molto grande, di una lotta che è stata fatta contro una decisione così arbitraria degli apparati così, delle inerzie di apparato burocratico, ecco, dell'amministrazione penitenziaria. Succede, appunto, in questo grosso carcere, si parla di 1400 detenuti e detenute, alcuni mesi fa, di recente, insomma, di il direttore, la direzione del carcere emana un dispositivo, insomma, che limita la spesa interna. Qual è il motivo reale? È che le guardie saranno andate a lamentare, insomma, attraverso il loro, così, probabilmente attraverso i loro sindacati, si erano andati a lamentare con la direzione perché e le procedure per le perquisizioni delle celle erano, per loro erano, insomma, era un carico di lavoro, erano tempistiche prolungate dal fatto che le celle erano ingombrate, erano ingombre di oggetti, no? Come si risolve sta roba? Come si... Naturalmente si scarica il problema su quelli che stanno peggio, no? Cioè sui detenuti, e quindi viene imposto un limite a 2 pezzi per ogni detenuto per la spesa. Cioè questo vuol dire, ad esempio, 2 pacchi di pasta per ogni cella, perché un solo può essere fatta una spesa per settimana per ogni cella, indifferente se sono, insomma, il numero di detenuti che vivono in quella cella. 2 pacchi di pasta, oppure 2 bombolette del gas, eccetera, insomma, vengono limitate le spese, no, interne, che sono, diciamo, anche questa cosa. Naturalmente in carcere senza spesa non si vive, perché col vitto uno va a finire o malato, o moribondo se è già malato, e quindi è necessario, insomma, acquistare le cose, insomma, quotidiane ai prezzi, insomma, e alle cose che vengono imposte, insomma, dagli appalti di queste amministrazioni, no, dello Stato. Ah no, un'altra cosa, anche la questione delle bottiglie: il massimo era di 10 bottiglie di acqua, perché l'acqua del rubinetto è sconsigliabile berla, se arriva l'acqua, quindi massimo di 10 bottiglie, indifferente di nuovo se si è in 3, in 5, in cella. In una settimana 10 bottiglie, uno muore di sete, no? Cosa si decide di fare? Viene scelta questa modalità di lotta, insomma, a bassa soglia. Comunque vengono consegnate, si inizia a consegnare, no? Tutti questi 1000 erotti detenuti consegnano il modulo spesa in bianco, cioè richiedono la domandina, la compilano, ma in bianco, senza comprare nulla. Quindi comunque la guardia deve passare, la guardia o il lo spesino deve passare a ritirare, quindi il macchinario va avanti ma a vuoto, no? E inoltre viene fatta anche una petizione che firmano tutti i detenuti, anche le detenute. Alla seconda settimana il titolare della ditta dell'appalto, che ha l'appalto da più di 20 anni in quel grosso carcere lì italiano, è andato in direzione urlando e sbraitando: siete fuori di testa, gli ha detto al direttore, a fare quel dispositivo. Cosa vuol dire? Che lui praticamente la seconda settimana, un rapido calcolo, insomma una rapida stima, praticamente se diciamo ogni settimana si spende da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro per queste cose di cui bisogna provvedere, insomma, quotidianamente, diciamo che si ha anche una media di 50 euro a testa, no? Per ogni detenuto, moltiplicato per 1300 fa 65.000 euro in una settimana, un carcere così grande, no? E quindi questa ditta di appalto, gli rimangono tutti i beni in magazzino. E niente, questo qui va a protestare, morale della favola. La terza settimana la direzione revoca il provvedimento, il dispositivo, e niente, la spesa viene ripristinata, e anzi diventa ancora più libera, ci racconta qui questo detenuto che ci scrive, insomma. 3 casse di acqua a testa a settimana, 6 bombole di gas, e spesa quasi del tutto libera, oltre, insomma, varie cose, insomma, per Capodanno e extra, ecco, che hanno avuto. E niente, la morale è questa qua, insomma, anche un minimo di fantasia, di creatività, anche di, insomma, di voglia di non piegarsi continuamente, ecco, dove si può recuperare qualcosa, alla dignità, dove questo è possibile, coinvolgendo anche, insomma, più persone possibili, ecco, e quindi la cosa spesso va anche a buon fine, può andare a buon fine. Così, quasi alla fine di questo appuntamento di Zanis Magnetics, diamo conto però di altre lotte, di altri prigionieri, e cioè dei prigionieri del CPR di Gradisca. Questo è un periodo, appunto, queste ultime settimane ci sono stati tantissimi episodi di rivolte, ribellioni e di proteste. Ricordiamo il 10 gennaio, quando un giovane tunisino cade dal tetto, appunto era salito sul tetto per protesta e purtroppo provocandosi gravi lesioni alle gambe. Il 15 gennaio c'è stato un altro episodio di questo genere. Il 16 gennaio c'è stata una protesta incendiaria nella zona rossa. La zona rossa è quella, diciamo, centrale, mediana, tra quella verde e quella blu centrale, comunque, della caserma. Il 21 gennaio, dopo due giorni di scontri, sono stati accesi molti fuochi nella notte e la polizia è entrata nelle celle caricando i detenuti e sequestrando i cellulari, che sono stati poi restituiti più tardi. E come a Capodanno, anche il 21 gennaio, alcuni prigionieri sono riusciti a salire sul tetto in segno di protesta. Il 22 gennaio poi l'agitazione è cresciuta ancora, c'è stato uno sciopero della fame collettivo che è sfociato in una nuova rivolta con fuoco nell'area rossa. La polizia ha lanciato lacrimogeni e getti d'acqua anche la notte, e durante la notte alcuni detenuti avrebbero tentato la fuga. In tutto questo, la cooperativa Ekene, che è la cooperativa, l'ente gestore, insomma, continua a gestire il centro, pur essendo in proroga il suo incarico, perché appunto c'è stata una gara d'appalto. Tra l'altro, nei filmati che arrivano, insomma, si vedono questi operatori della cooperativa Ekene che spalleggiano, accompagnano nelle camerate, insomma, gli sbirri. E tra l'altro, veramente, carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa, veramente sì, picchiatori veramente fuori dalle, sì, fuori controllo. E niente, dopo questi due giorni, insomma, di rivolte, l'area rossa adesso risulta, del campo risulta praticamente completamente devastata, e nessun prigioniero sembra trovarsi al suo interno. 8 sono stati trasferiti in area blu, 35 deportati in Tunisia o Marocco o trasferiti in carcere. E intanto sono continuate le perquisizioni da parte dell'antisommossa nelle camerate. Quindi chiaramente le rivolte in questa, nelle strutture come il CPR di Gradisca hanno esiti sempre drammatici per i rivoltosi, nel senso che non c'è margine, diciamo, di trattativa, no? Come può essere appunto all'interno del circuito penale, quindi di un carcere, perché i CPR sono veramente dei veri lager, sono peggio delle carceri, perché non c'è alcun tipo di margine appunto di negoziazione o di riconoscimento di minimo, insomma, dei diritti base dei detenuti, e non ci sono nemmeno criteri, diciamo, che riguardano la detenzione, che poi vengano disattesi nelle carceri, ma qui proprio non c'è nemmeno questo. Difatti, insomma, tutte le immagini che arrivano da questi lager dimostrano che sono delle vere e proprie gabbie per umani. E nonostante ciò, però, anche se appunto le ricadute sono purtroppo quasi sempre drammatiche, è un segno molto positivo e molto importante il fatto che comunque i prigionieri continuano a rivoltarsi. Non esiste CPR in cui non ci siano proteste, rivolte, appunto incendi, insomma, non, ogni detenuto, ogni prigioniero non può accettare questa condizione, e questa è una cosa, sì, appunto, importantissima, e questi loro atti vanno assolutamente sostenuti anche dall'esterno. Non è possibile accettare che ci siano luoghi veramente, cioè lager della modernità, così come ciò che sono i CPR. E sì, io volevo ricordare anche questo, anche se siamo alla fine, perché mi è venuto su un tiro di rabbia veramente, cioè questa storia delle deportazioni che avvengono tra l'altro con un inganno, perché vabbè, lasciamo perdere, poi magari, cioè, approfondiremo anche, ci sono, insomma, stati degli approfondimenti anche su questa cosa qua dei rimpatri. E volevo ricordare questo episodio avvenuto in questi giorni di questo torturatore assassino dei campi della Libia, di trattenimento della Libia, che è stato qua arrestato in Italia e poi è stato dal governo praticamente riportato in Libia, scarcerato e riportato in Libia con un Falcon, questi velivoli del dominio che vengono utilizzati appunto dalle forze, dai servizi segreti, ecco. E ecco, quindi, cioè, siamo in un paese in cui avvengono queste cose e sì, niente, non ci possiamo che augurare, e cercheremo di fare di tutto veramente perché diventi realtà il fuoco ai CPR e il fuoco alle galere. Bene, stiamo ascoltando in sottofondo questa band trentina, loro sono i Grandine, da un loro album compilation uscito nel 2022, band che era esistita tra il 2000 e il 2004 e all'epoca fece solamente un CD che si chiamava Accendi la miccia dei tuoi pensieri. Comunque ora appunto è stato ristampato quel CD più anche alcuni brani live in questo 12 pollici LP per il granine. Bene, io ricordo che questa trasmissione è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta qui da studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Siamo completamente in ritardo oggi giovedì 23 gennaio 2025, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Ciao a tutti e alla prossima settimana.